Allora, 18 l'appuntamento, spero mi facciano entrare subito, se no me ne crollo. Allora ti fanno entrare in ritardo, che sta a fumare del fendeghiccio. Beh, domani mi sa che siamo a casa. Ma io non so ancora niente, Paolo, e adesso sentiamo cosa ci dicono. No, ma tu sono volti a lei. Positivo, da lì ne sto uscendo, Paolo, ho finito di scaricare alle 4. Eccolo. E come la famo? Che 4 alle 4. Scappa di Rogero. Stamattina c'ero presto, alle 8:30 c'erano le due ribalte libere. E ci hanno entrato già dieci, cazzo, non c'era un'anima all'ello, 10:15, 10:20, non c'era nessuno. Cappa di Rogero. Beh, Paolo, ti saluto, che mi servono le due mani. Alla prossima, fate un buon ferragosto se non ci vediamo, Paolo. Cazzo, dai, un buon ritorno e buon ferragosto se non ci avete più domani, e buon fine settimana. Ciao Paolo. Aspetta, dottore. Aspetta che c'è questo froscio, cazzo, che esce a manetta. Chissà dove sta andando questo. Non ci ho pigliato nel culo. Qua, già, dovrebbe essere uno che c'ha una macchina, che c'ha una cassa verde dietro. E quello lì è carino proprio, eh. Attento quando te lo trovi dietro. Ah, se puoi, se ha chiarito sicuramente, ce li può chiarire sicuramente, so. Attento quando arrivi sotto al ponte e ti devo essere un laser.